Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, 13.34 a quest'ora su Radio 24. Raccontiamo la cronaca delle città, dei protagonisti dell'Italia che va, nonostante la crisi, ma anche di chi invece domanda maggiore attenzione, come accade nella prima storia di oggi. I ricercatori dell'università protestano, i corsi sono a rischio, le facoltà chiedono più soldi, niente di nuovo sotto i cieli, la mancanza di feeling, diciamo così, col ministro Gelmini non è una novità. E poi sono sempre di più quelli tra di noi che si sono convinti che anche lì ci sono risorse, sprechi da tagliare, il taglio, la parola magica di questi anni. Bisogna però ricordare che l'Italia, nel confronto con gli altri paesi, continua a spendere sempre di meno, troppo poco nella ricerca, l'1,3% del PIL contro il 2,5% della Germania o l'1,9% della media europea, a fronte di altri capitoli, due per tutti, il costo della politica o le pensioni. E allora sarà scontro anche questa volta, Alessandra Schepisi. Lezioni annullate, cattedre vuote, aule deserte. In molte università d'Italia l'anno accademico rischia di cominciare così. Da Milano a Palermo, dall'Aquila a Pisa, da Firenze a Genova, gli atenei in rivolta non si contano più. A protestare sono i ricercatori, sui quali pesa il 40% della didattica, che ora si rifiutano di far lezione. Qualcuno lo chiama sciopero bianco, ma uno sciopero in realtà non è, visto che far lezione non rientra nei loro obblighi contrattuali. E a nulla è valso l'appello del ministro Gelmini, più volte ribadito ai ricercatori. Non accettiamo che l'attività didattica sia interrotta a scapito degli studenti. Quindi mi sento di fare un appello ai ricercatori, perché l'interruzione della didattica non si capisce cosa sia, non è uno sciopero, perché non importa una riduzione dello stipendio, però crea notevolissimi disagi agli atenei, quindi io mi auguro che si abbandoni quanto prima questa modalità, che non è rispettosa non tanto della politica del governo, ma quanto del diritto allo studio degli studenti. Pomo della discordia, il disegno di legge Gelmini di riforma universitaria già approvato al Senato e nelle prossime settimane atteso alla Camera. Un provvedimento che, dicono i ricercatori, li lascerebbe fuori da ogni possibilità di carriera. E poi la mancanza di risorse. Per questo la loro protesta è sostenuta in alcuni casi dai rettori. Marco Merafina, coordinatore nazionale dei ricercatori universitari. Ci sta un duplice disagio. Cioè abbiamo un disagio che è generale, che non riguarda solo i ricercatori, ma riguarda tutto il mondo universitario, perché l'università è depressa da tantissimi anni, perché è sottofinanziata. Sono diversi governi che hanno in qualche modo dato meno soldi di quelli che effettivamente servono all'università per funzionare. Questo è un punto. C'è un altro punto che è altrettanto importante, che è quello del ruolo dello stato giuridico dei ricercatori universitari. I ricercatori universitari sono 30 anni che aspettano lo stato giuridico, e in questo disegno di legge non viene risolto alcuno di questi problemi. Anzi, nei fatti i ricercatori non sono considerati corpo docente, pur facendo didattica da tantissimi anni. Così come a nulla è valso l'annuncio del ministro Tremonti di due giorni fa sull'arrivo di nuovi fondi all'università entro dicembre con il decreto di fine anno. Soldi che, ha precisato il ministro, saranno legati alla riforma dell'università. La solita tattica per fermare la protesta, così come avvenne nel 2008, commentano i ricercatori. Alessandro Breccia, referente della rete ricercatori dell'Università di Pisa, spiega dunque quali saranno le prossime iniziative di mobilitazione. Noi ieri appunto abbiamo tenuto un'assemblea pubblica e abbiamo deciso di aderire alla mobilitazione nazionale che è stata indetta venerdì scorso a Roma. Pisa aderisce e quindi anche noi tra il 4 e il 6 di ottobre faremo varie iniziative che poi si concluderanno il 6 ottobre in una manifestazione pubblica nella sede storica dell'università. Questo diciamo è il primo passo di una mobilitazione che noi vorremmo fosse ampia come quella del 2008. Pisa fu la prima università a scendere in piazza. L'annuncio di Tremonti viene invece apprezzato dal presidente della conferenza dei rettori, Enrico De Cleva. No, la CRUI è soddisfatta perché è la prima volta che il ministro assume un impegno di questa natura, e quindi diciamo l'indicazione di principio di collegare la riforma alle risorse è importante. Naturalmente è altrettanto importante la quantificazione, quindi fin tanto che non ci sarà un'indicazione di cifre c'è margine per essere soddisfatti o preoccupati. Insomma, la notizia è in ogni caso positiva, la vicenda non è certamente conclusa. Una protesta, quella dei ricercatori, come si diceva, sostenuta con forza da molti rettori. Primo fra tutti quello del più grande Ateneo d'Italia e d'Europa, il rettore dell'Università La Sapienza di Roma, Luigi Frati, che pochi giorni fa ha lanciato un grido d'allarme: servono soldi e subito, il bilancio è in rosso, altrimenti l'anno accademico non partirà. Io penso questo, si dice che l'università deve ristrutturarsi per avere i fondi, noi ci siamo ristrutturati, ci attendiamo i fondi, se i fondi non arrivano allora è la politica che deve assumersi le sue responsabilità. Io il bilancio in rosso non lo posso approvare, il paese deve rendersi conto che la Germania investe il 3% nella ricerca, il PIL cresce del 3% e l'occupazione cresce, l'Italia investe quando va bene l'1% nella ricerca, quando va bene il PIL cresce dell'1% e l'occupazione è stagnante se non regressiva, cioè ci stiamo giocando il futuro del paese. Italia in controluce. Era una storia che sta tutta nella persona che ce la racconta. Sara Bianconi di Bologna si è inventata voci dalla città. Va in giro per i quartieri cantando con altre persone che come lei hanno il dono del canto, incontrano le persone, parlano e insomma muovono qualche cosa a Bologna, tanto da meritarsi una citazione al premio Bologna Città Civile. Conosciamola. Io facevo parte di un coro parrocchiale, siamo andati in trasferta a Roma, a Tor Bella Monaca. Solo che il pullman ci aveva scaricato un po' lontano, quindi noi alcuni del coro hanno fatto un pezzo di strada per raggiungere la parrocchia dove dovevamo cantare. Canticchiando? Non avevamo il tempo di fare delle prove e abbiamo pensato di fare le prove dei brani cantando per le strade. Quindi è nato tutto così da questo caso? Abbiamo visto l'effetto, abbiamo visto che la gente rimaneva sorpresa, abbiamo visto che qualcuno si affacciava timidamente e poi rimaneva e poi ci applaudiva e poi ci ringraziava. Ma avete avuto subito poi l'idea di rifarla questa esperienza oppure ci avete ripensato magari qualche giorno dopo? Io ci ho pensato un pochino, ma non tanto. Ho detto bene, io devo farlo anche a Bologna questa cosa qui. E adesso dov'è che andate a cantare? Dunque, tenga presente che il mio progetto, che si chiama Con Salutati in Itinere, noi lo facciamo solo d'estate, quindi è previsto solo da aprile a settembre, proprio perché andando fuori ci vuole il bel tempo, certo, sennò è difficile. E anche la voglia di aprire le finestre, perché magari quando ci sono i primi soli la gente, ecco, fa le pulizie alle finestre, insomma. Ma e la gente come reagisce quando vi vede arrivare cantando in mezzo alla strada? Io cerco di andare nei punti, non so, nei cortili, ecco, dentro al corpo della città, quindi la gente ci sente da in casa, e per noi vedere che quando aprono le finestre che si meravigliano un po', addirittura una volta uno ci ha allungato una monetina, però è stato 10 minuti con la mano alzata, perché ovviamente voi la moneta non la raccoglievate. Esatto, non sapeva. Ma voi poi cantate solo o anche vi mettete a parlare con la gente? Perché lo scopo mi sembra anche quello poi di creare un po' di socialità. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Ad esempio, quando siamo andati al treno della barca, un signore ci ha sentito, è sceso con la sua macchina fotografica e ci ha accompagnato per tutto il tragitto facendoci delle fotografie bellissime. Altre persone ci salutano quando vediamo qualcuno che si affaccia, abbiamo già ottenuto il massimo. Ma e qual è il vostro repertorio? Il nostro repertorio l'ho scelto cercando di trovare dei brani molto celebri, molto famosi, in modo da poter dare alla gente che abbiano un impatto bello subito. Insomma, per esempio? La Nanna di Brahms, la Barcarolla di Offenbach. Poi facciamo dei canti medievali dei pellegrini, proprio si facevano camminando. Senta, me lo fa un gorgheggio qualcosa? Mi fa un esempio, perché insomma immagino che canterà talmente bene, perché altrimenti non avrebbe impensato questa cosa. Non so, una delle aree che preferisce. Va bene, posso fare la Barcarolla di sì. Offenbach, un accenno. Le tranquille sore duran porte notam rese. Basta. Ah, ma che meraviglia, complimenti. La voce è molto bella e naturalmente intonata, se no non potrebbe fare regalare questi momenti belli alla città di Bologna. Chissà se qualcuno che ci sente la vorrà esportare. Ma guardi, il mio desiderio più intimo, che non lo dico, cioè perché potrei essere presa per pazza, è proprio quello di vedere altri cori che popolino la domenica mattina le strade, che sia proprio un momento. Beh, la domenica mattina andiamo e allora si vede già un gruppetto là e un gruppetto qua, sarebbe una cosa meravigliosa. È tutto anche per quest'ultima puntata della settimana di Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Vi ricordo che siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce, oppure scriveteci controluce@radio24.it. Ci sentiamo lunedì prossimo, buona giornata.